87.9, questa è Radio Onda Rossa, 18 e 37 minuti primi. Inizia così anche per quest'oggi, speciale Palestina, che come già vi abbiamo annunciato due settimane fa, per questo mese la voce che lo condurrà non sarà quella solita, poi tornerà insomma il mese prossimo la normale conduzione. Per ora ci siamo noi, ci sono io, quindi un buon ascolto a tutti e a tutti voi. Questa è sempre Radio Onda Rossa e andiamo subito a iniziare la trasmissione, perché abbiamo un collegamento con Piramide. Quest'oggi due gli argomenti di cui parleremo durante la trasmissione: uno è ovviamente l'Egitto e quello che sta avvenendo a Piazza Tahrir, come sta avvenendo a Roma, in questo caso a Piramide, un presidio, volantinaggio di solidarietà alle rivolte un po' in tutto il mondo arabo. In particolare quest'oggi ricorre l'anniversario di quella di Piazza Tahrir e la prossima avventura cacciata di Mubarak, che è avvenuta l'11 febbraio poi dello scorso anno. Andremo poi a parlare della invece campagna BDS, la campagna lanciato ormai diverso tempo fa contro Israele per boicottare alcuni prodotti israeliani. Andremo a parlare in particolar modo perché c'è stato una due giorni lo scorso weekend, un due giorni nazionale. Ma andiamo subito a collegarci con Piramide. Ciao. Ciao a tutti e a tutti. Allora, diciamo questo. Sì, si sente benissimo. Allora, perfetto, questo appuntamento alle 18 era l'appuntamento, ormai sono già passati 40 minuti per questo presidio, volantinaggio a Piazza della Piramide. Insomma, la piramide è un po' come il luogo che ricorda ovviamente l'Egitto, in questo caso Piazza Tahrir. Insomma, dici un po' come sta andando, qual è il clima, come sta anche rispondendo, diciamo così, la piazza a questo presidio e la partecipazione. Sì, la piazza diciamo che ha risposto bene anche prima in realtà dell'appuntamento, che era comunque un video abbastanza numeroso di fronte a Piramide e molti migranti. Questa è una cosa insomma che è molto bella da sottolineare, secondo me. Non si tratta solo appunto di noi tra virgolette classici, che comunque molto spesso stiamo in piazza. Ci sono molti migranti che si fermano anche appunto grazie al volantinaggio che stiamo facendo davanti alla metro appunto di Piramide. Siamo appunto proprio al centro del promontorio che sta di fronte all'uscita della metro, un sound naturalmente. Molti migranti proprio in questo momento lo stanno parlando, alcuni egiziani proprio in arabo, anche proprio per far avvicinare persone e sensibilizzare la piazza sulle tematiche che comunque questa iniziativa vuole affrontare. Anzitutto in primis una solidarietà da dimostrare verso il popolo egiziano, che da stamattina è comunque sceso in piazza nelle varie città d'Egitto e che protesta in maniera animata, forte e determinata contro la presenza ancora dei militari al potere, e anche naturalmente una protesta che si rivolge a tutti quei partiti politici che invece stanno cercando di diffondere o comunque di dissuadere i manifestanti a scendere in piazza, perché appunto ormai hanno ottenuto il loro bel seggio in Parlamento e quindi sono naturalmente appagati dalle lotte che ci sono state. La piazza non si vuole fermare lì e quindi per questo siamo qui oggi appunto a Piramide per dimostrare la nostra solidarietà, una solidarietà che comunque è stata anche accolta bene. Questo ci hanno fatto sapere da poco anche in Egitto, dove comunque l'iniziativa di Piramide è stata anche pubblicata sui media, insomma su alcuni giornali nazionali. Cosa bella naturalmente sarà anche l'intervento di Dib, questo rapper egiziano che comunque sta avventura in Europa e che è sceso qui a Roma proprio per questa iniziativa e che appunto a brevissimo proprio farà appunto un suo intervento e naturalmente alcuni pezzi per mantenere uno stato diciamo attivo della piazza, anche perché il tempo insomma è abbastanza freddo, come potete immaginare. Questa è la situazione, diciamo. Naturalmente poi ci sono anche delle rivendicazioni di carattere più nazionale, più italiano, nel senso che ci si vuole confrontare anche con delle tematiche che affrontano i migranti non solo egiziani qui in Italia. In primis l'ipocrisia del governo italiano, che comunque sta cercando, ha stipulato e continua a stipulare accordi bilaterali con l'Egitto e con altri regimi per la vendita di armi, quelle stesse armi che comunque hanno oppresso e represso la piazza egiziana in questi ultimi mesi. Siamo contro e contestiamo gli accordi che vengono fatti anche a livello bilaterale tra il governo italiano e i governi arabi per appunto l'espulsione degli immigrati cosiddetti clandestini, molto spesso con quote che vengono definite solo in base ai rapporti di imprese private che comunque dall'Italia esportano i propri capitali e appunto ricchezza e la propria, diciamo, per fare profitti vanno appunto in Egitto e in altri paesi per ottenere comunque e costruire degli stabilimenti con una manodopera sicuramente a basso costo rispetto a quella appunto che possono ottenere qui in Italia. Quindi in realtà le rivendicazioni sono sia di carattere internazionale, solidaristico internazionale, sia di carattere appunto proprio di politica interna in Italia. Sono cose comunque secondo tutta la piazza sono strettamente legate ed è quello che infatti è scritto sul volantino che stiamo facendo girare. Perfetto, noi ti ringraziamo, cercheremo poi nel corso della trasmissione casomai di collegarci anche con Piazza Tahrir e al limite torneremo con voi in chiusura di trasmissione all'inizio del GR delle 7:30. Perfetto. A dopo, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Allora, questo è l'appuntamento appunto che stavate sentendo a Piramide, per chi volesse ancora recarsi lì c'è ovviamente ancora tempo, anzi l'invito insomma a tutte e a tutti voi è andare proprio a Piramide per questo presidio volantinaggio e in solidarietà alla popolazione egiziana in rivolta, anche in solidarietà a quello che sta avvenendo ora in Egitto, cioè di continuare a manifestare perché insomma la giunta militare non piace certo alla popolazione. Noi mandiamo un secondo di musica e poi torneremo in diretta perché parleremo di una due giorni che c'è stata proprio lo scorso weekend, una due giorni che ha avuto come argomento la campagna BDS, cioè di boicottaggio, sanzioni e disinvestimento contro lo Stato di Israele, e parleremo di come è andata ma anche di tutte le iniziative future che ci saranno. Quindi 87.9 ancora a Radio Onda Rossa, speciale Palestina quest'oggi, torniamo in voce, torniamo in diretta per entrare così a cominciare a chiacchierare con la nostra ospite. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Allora, diciamo che insomma da questi microfoni, da questa trasmissione, da questa radio abbiamo diverse volte parlato di questa campagna BDS, una campagna ormai iniziata diversi anni fa, se non sbaglio ormai quasi 7, 2005, e la campagna insomma lanciata da varie associazioni palestinesi affinché nel mondo, in tutto il mondo, si possa dare un sostegno concreto senza direttamente andare in Palestina, ma scegliendo quello che si compra e cercando di spingere anche i nostri governi eventuali a cambiare le politiche, diciamo così, di scambio economico, soprattutto culturale, penso universitario e vi dicendo. Questa campagna appunto, la campagna BDS di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro proprio Israele e le sue politiche. E ormai sono 7 anni, adesso a Bologna il 20 e il 21 di gennaio c'è stata questa 2 giorni nazionale. Quindi insomma ci faceva molto piacere capire che cosa si è detto, se avete tirato delle somme su questi anni e quali saranno poi appunto le prospettive future. Sì, è stato un incontro molto intensivo e si è visto il progresso che abbiamo fatto dalla prima riunione nazionale BDS a Pisa nel 2009. Si è visto, abbiamo fatto un confronto sulle 3 campagne principali, cioè le campagne che si svolgono a livello nazionale in Italia. È quello contro la Pizzarotti, che sta costruendo questo treno che collega Gerusalemme e Tel Aviv attraverso i territori palestinesi. E quello appena iniziato, sinceramente, quello contro la Soda Stream, che è stato un po' il seguito della campagna lanciata contro la Grexco, perché sono campagne molto simili, sono prodotti che più o meno tutti conoscono e comprano, e hanno un legame stretto con l'occupazione e vengono venduti in alcune degli stesse, le stesse catene, tipo la Coop Italia, che è stato un bersaglio nostro. E la Grexco è andata in liquidazione l'anno scorso, e quindi la campagna è un po' in stand-by mentre aspettiamo i nuovi proprietari per sapere quello che faranno con la società. E nel frattempo è partito questa campagna contro la Soda Stream, che è una società israeliana che produce questi aggeggi per la cucina, per mettere il CO2 dentro l'acqua, per fare l'acqua frizzante in casa. E hanno una fabbrica in... Che è già di per sé una cosa comunque allucinante. Una cosa, veramente comprare un aggeggio, ti metti l'aria dentro l'acqua. Sì. Quindi loro si vendono moltissimo come una società ecologica che risparmia bottiglie di plastica, e nel frattempo hanno la fabbrica principale in una colonia nella Cisgiordania, che tra l'altro le tasse che loro pagano vanno direttamente a questa colonia, che gestisce la discarica di Abu Dis, una discarica dove vanno 1100 tonnellate di rifiuti da Gerusalemme e le colonie in territori palestinesi, che sta sopra la Mountain Aquifer, cioè la fonte principale di acqua per i palestinesi. Quindi è proprio una cosa paradossale che questa ditta si presenta come una ditta ecologica. Infine abbiamo parlato della campagna di boicottaggio accademico e culturale. Che diciamo, insomma, che cosa se ne è assunto? Quali conclusioni siete arrivati? Perché è una campagna di cui difficilmente, al contrario di quelle un po' più sui prodotti eccetera, che è un po' più facile, diciamo così, sostenere e che hanno anche una diffusione, diciamo così, più capillare anche tra la popolazione, è più facile andare nei supermercati, informare la gente. Quella accademica, insomma, la vedo spesso ci si è provato, però la vedo un po' più difficile. È senza dubbio più difficile, è una cosa più delicata, e non per niente che c'è una sezione del comitato palestinese che si occupa proprio di questo tipo di boicottaggio, che hanno scritto anche delle linee guida molto dettagliate, perché riconoscono che è un boicottaggio più delicato, più difficile. Anche perché l'accusa che viene sempre fatta è quella contro, non con boicottaggio, contro la popolazione di Israele, perché si vanno a colpire casomai dei singoli, penso intellettuali piuttosto che professori, penso gli accademici e via dicendo, piuttosto che contro l'istituzione o lo Stato di Israele. Però è una campagna senz'altro contro le istituzioni, mai contro i singoli, almeno che non si prestano per queste istituzioni che sostengono l'occupazione. E questo è stato ci sono stati workshop poi su tutte queste campagne. Quello del PACBI, cioè il boicottaggio accademico e culturale, per fortuna c'erano diversi docenti, studenti, quindi del mondo accademico, perché è anche difficile per noi che non facciamo parte di quel mondo entrare, quindi deve essere una cosa, un po' una cosa che portano avanti loro da interno. E comunque ci sono stati diverse azioni sparse in giro per l'Italia. La cosa molto importante che è venuto fuori da questa riunione è di unire le forze, cioè di coordinarci, di fare una campagna più coordinata fra di noi, che con una sigla unica, che ha un impatto molto più forte, quindi adesso loro faranno il lavoro di identificare, perché l'altra cosa con il boicottaggio è che non si può occuparsi di tutto, ci sono una marea di, purtroppo, di accordi fra università. Stiamo parlando dello Stato di Israele, che negli ultimi anni insomma ha investito tantissimo su questo. E quindi di identificare un accordo su cui puntare e lavorare su quello. Ed è questo che ci chiedono anche i palestinesi. C'è stato un intervento molto bello da parte di Hinda Awad, che è coordinatrice palestinese per il comitato palestinese per il boicottaggio, che parlava del fatto che dobbiamo fare scelte strategiche, cioè dobbiamo puntare dove possiamo ottenere risultati per avere un impatto sullo Stato di Israele, perché altrimenti stiamo perdendo tempo. Cioè la cosa che dobbiamo fare è scegliere campagne dove si può costruire una coalizione, perché un gruppo locale singolo non avrà l'impatto che una coalizione nazionale, e di scegliere target strategici specifici e di programmare una campagna a lungo termine. Questa è un'altra cosa che si è visto con le campagne portate avanti contro la Pizzarotti e la Grexco, che abbiamo imparato tanto di come si porta avanti una campagna a lungo termine, perché siamo abituati a fare azione singoli, invece questa è stata una cosa, una novità per tanti degli attivisti della campagna boicottaggio. Senti, ultimamente si è parlato tantissimo invece del turismo, cioè Israele ha investito tantissimo, il proprio ministero, diciamo, il ministero del turismo, soprattutto in Italia, e abbiamo insomma, ci sono nati i comitati anche contro il CTS per la campagna che avevano fatto sul bello di Israele, ma in particolar modo nell'ultimo anno sono nati tanti comitati contro il pink washing, cioè contro le campagne, diciamo così, sta facendo Israele di rivolta alla comunità LGBT in particolare, la comunità quindi gay, comunità lesbica, via dicendo, perché per accoglierli, perché la terra di Israele è una terra appunto aperta, e qui poi ultimamente stanno nascendo un sacco di contraddizioni, perché all'interno di Israele, poi ne faremo casomai una puntata, a livello religioso non stanno messi così bene, per cui anche tutta questa immagine che Israele nel corso degli anni ha cercato di dare la sta distruggendo, la sta autodistruggendo. Però diciamo che ha investito molto, io leggevo non so quale sito che ultimamente Israele è svettata quasi ai primi posti per il turismo gay friendly, e volevo sapere insomma se su questo, siccome so che tanti comitati soprattutto in Inghilterra, in America, ma penso anche insomma nel nord Europa, ne stanno nascendo tantissimi che lavorano proprio sul pinkwashing, se casomai ne avete parlato. Sì, abbiamo parlato di tutti gli aspetti del turismo, e quello religioso, quello del pinkwashing, e il turismo che viene promosso da Israele per andare in spiaggia a Tel Aviv, e locali a Tel Aviv. E ci sono diversi gruppi in giro per l'Italia che stanno lavorando su questo argomento. E c'era a parte queste tre campagne principali di cui abbiamo già parlato, c'era un ultimo workshop che cercava di sapere quello che succedeva in giro per l'Italia e dove puntare, e una di queste era proprio il turismo, e quindi si è parlato di questa campagna di pubblicità che Israele sta svolgendo proprio in questo periodo, e sia a Roma che a Milano le metro sono coperte di pubblicità per Israele, e anche la campagna per quanto riguarda i pellegrini, per il turismo religioso. E quindi questa sarà un'altra campagna che ci siamo dati un po' di tempo per organizzarci a livello nazionale e vedere dove cercare di puntare le forze. Ok, l'ultima domanda, e so che ci saranno dei prossimi appuntamenti, nel senso la campagna BDS non è una campagna ovviamente soltanto italiana, ci sono comitati e associazioni, gruppi eccetera un po' in tutto il mondo, so che i prossimi appuntamenti saranno anche negli Stati Uniti, dove un po' anche forse il cuore di questa campagna, della campagna BDS, ci vuoi dire qualcosa su questo? Sì, il 4 e 5 febbraio ci sarà la riunione nazionale negli Stati Uniti all'Università di Pennsylvania a Philadelphia, e hanno già chiuso le l'iscrizione è 250 persone per motivi di spazio, e quindi sarà una cosa grossa. Ci sono tanti relatori molto interessanti come Ali Abu Nima di Electronic Intifada, e ci sa Bill Fletcher, che è un storico attivista anti-apartheid durante l'era dell'apartheid in Sudafrica, quindi per fare anche confronto fra l'apartheid in Sudafrica, quello Israele e Palestina, e confronto del movimento BDS, perché c'era la campagna BDS anche durante l'apartheid in Sudafrica. E ci saranno tanti workshop sull'uso dei media, social media, e anche per quanto riguarda le accuse di antisemitismo, perché questo succede moltissimo nei campus statunitensi, ma anche in Italia insomma succede tantissimo. Sì, sì. Poi ci sarà infatti le organizzazioni pro-israeliane già si stanno organizzando contro questa conferenza, e hanno organizzato adesso, 2 giorni prima della conferenza, hanno invitato l'avvocato Alan Dershowitz, che è un noto sostenitore di Israele, e si stanno organizzando diverse iniziative, e quindi sarà una cosa senz'altro molto interessante. Perfetto, quindi noi ti prenotiamo per la settimana dopo, insomma, quando tornerai, così parliamo anche di quello che succede negli Stati Uniti, per continuare a parlare delle campagne BDS, che mi sembra insomma che abbia avuto e stia avendo comunque una notevole diffusione, che non solo a livello insomma di militanti che la fanno eccetera, ma anche di gente che accoglie, perché ovviamente quando si va a comprare si ha un potere, e la gente comincia anche a capirlo questo. Quindi si parla sempre insomma che il boicottaggio non serve a niente, invece io noto che già in passato, appunto, è successo a Carmela Grexco, ma mi ricordo anche quando il Sinaltrana la lanciò contro la Coca-Cola, comunque dei risultati sono stati sempre ottenuti, nonché insomma parliamo dell'apartheid in Sudafrica. Non so se hai qualcos'altro da aggiungere. Sì, questa è stata proprio una cosa che ha detto Hindawa durante l'intervento a Bologna, che Barak, Netanyahu, Peres, ultimamente hanno tutti parlato della campagna BDS, gli preoccupa. L'hanno anche questa imitata. È la migliore indicazione che possiamo avere che sta funzionando. Diciamo che ovviamente in Israele è stato anche votato alla Knesset il fatto che le associazioni israeliane, perché diciamo che poi ci sono anche altri comitati, associazioni che lavorano la campagna BDS all'interno dello stesso Israele, che sono state considerate fuori legge, e non mi vorrei sbagliare, forse addirittura delle deputate, insomma comunque anche all'interno di Israele se ne parla tantissimo, segno che ovviamente dà fastidio. Sì, ma le campagne di boicottaggio danno fastidio perché l'immagine che uno Stato vuole dare è certe volte più importante delle politiche, no? Perché poi soprattutto Israele, che è uno Stato che vive tantissimo di turismo, che vive tantissimo anche della consensualità dell'esterno, no? Quindi di questo ovviamente ne ha molto bisogno. Assolutamente. Io ti ringrazio tantissimo e ci vediamo allora fra un paio di settimane, ci risentiamo per capire cosa succede e che proposte ci vengono dagli Stati Uniti. Con piacere, grazie a te. Ciao. Ciao. E prima di passare ad un altro argomento, leggiamo dal blog freepalestine.noblogs.org questa notizia che riguarda 3 palestinesi del 48 arrestati per aver chiamato a boicottare una conferenza di Peres. Si parla di un altro tipo di boicottaggio, quello appunto che avviene all'interno dello stesso Stato di Israele, che in questo caso insomma non riguarda un prodotto ma riguarda bensì una persona. 3 palestinesi cittadini israeliani che studiano al Jerusalem College of Engineering sono stati arrestati mercoledì scorso per aver, secondo l'accusa, minacciato altri studenti che stavano per partecipare ad una conferenza di Shimon Peres, presidente israeliano. Mentre loro stessi boicottavano apertamente la conferenza, il loro arresto è stato il risultato di un reclamo registrato nei loro confronti per minacce e istigazione. Loro hanno comunque dichiarato di essere stati arrestati per aver chiamato al boicottaggio della conferenza stessa. Sono stati messi agli arresti domiciliari dalla corte ed espulsi da Gerusalemme per una settimana, così da impedirgli di parlare agli altri studenti e anche insomma di poter continuare ovviamente a

still they're just stacking their chips. You wonder why the youth them are strapped and they're pissed. If not a nine, it's a knife getting jabbed in your roof. People die for the petrol and gas and I whip. In London, you can get shanked in the heart, still the government put more tax in Iraq. Ignorant little spitters are talking greasy, cause they bitten bits that they saw on TV. If all you rap about is the holes in the dough, it's already too late. You sold them, you sold the jokers. Act like you know, but you don't, cause there's little kids dying all over the globe. They used to put my lights out on nights out, but days in, spend days in, and tell me to navigate ways in the mazes. A white out, it's right out, amazing to think. Now let the revolutionary sing. Stand up for your rights and fight for revolution. Free your mind and so ignite the constitution. Cause they're killing us all. Revolution is needed, the truth, I speak it. If I gave you food for thought, would you eat it? I don't really know, it's silly though, cause if I promo your product in my video, then you give me dough just to act cool. But if I chat sense, squat fools act all backwards and blackball. Big time pricks wanna kill our music bit by bit. Take a look at the 696, is it Armageddon? Or the start of recession? The architect said we're far from the essence. We know the answers but aren't asking the questions. All the past lessons, we can't just forget them. Sheep MPs are like weak MCs, say they won't stop till we get free. Probably too busy playing on your PS3. Wanna see the BMPEMD, just as on the net, the names ain't hidden. Wanna vacate these race hate villains, alienate these snakes and change Great Britain. Cause I love music but I hate racism. Quick to get a knife and stick it in your brother. Think you're tougher but still you're gonna suffer. Tears in the eyes of what you did to your mother. How we gonna fight back? They used to put my lights out on nights out, but days in spend blazing. Then tell me to navigate ways in the mazes. A white out, it's right out, amazing to think. Now let the revolutionary sing. Stand up for your rights and fight for revolution. Free your mind and so ignite the constitution. Cause they're killing us all. They're killing us all. Stand up for your rights and fight for revolution. Free your mind and so ignite the constitution. Cause they're killing us all. Sempre Radio Onda Rossa, torniamo quindi in diretta perché, come annunciato, ci andiamo a collegare con Piazza Tahrir. Buonasera. Salve a tutti. Allora, ciao Marco. Allora, innanzitutto, vabbè, la domanda consueta, quasi spontanea, che mi viene da chiederti è come è stata, cosa è successo oggi in Egitto, cosa è successo oggi al Cairo e a Piazza Tahrir. Oggi al Cairo è successo che la popolazione in gran numero è tornata in piazza. Questo è un evento molto bello e è stato molto entusiasmante, è tuttora molto entusiasmante. Piazza Tahrir è così piena da non riuscire ad entrare in questo momento. Sta parlando di milioni e milioni di persone che sono scese in piazza non per festeggiare. Non per festeggiare l'anniversario della rivoluzione, ma per ribadire che la rivoluzione non è finita, per ribadire che le richieste della rivoluzione non sono state ancora non sono ancora passate, che c'è ancora un governo militare, che si vuole che la giunta militare, che Tantawi, che lo SCAF lasciano il potere ai civili, che venga rifatta un'altra costituzione sotto governo civile, e quindi la gente è scesa in piazza per protestare, non per celebrare. E quindi era, insomma, la piazza è di nuovo chiusa, è stata occupata nuovamente, ci sono i controlli dei ribelli all'ingresso, nuovamente sono state montate tende, la gente rimarrà in piazza, si spera, ad oltranza. Ci sono stati moltissimi diversi cortei in tutto il Cairo, fino a varie ore del giorno, dalle 10-11 di mattina fino all'una, alle 2, alle 2 e mezzo di pomeriggio, che da vari luoghi, da vari quartieri diversi della città hanno raggiunto Piazza Tahrir. E la popolazione è scesa in piazza in tutti i suoi, in modo trasversale, con tutte le loro differenze di generi, età, classe, e credo veramente la cittadinanza sia rappresentata. Un'altra cosa che è successo è che il Consiglio Supremo delle Forze Armate, che già da un po' ha cercato di appropriarsi in modo celebrativo della data del 25 gennaio per festeggiare quella che loro chiamano la vittoria di una rivoluzione che invece ancora non è finita, questo ribadiscono i ribelli, e quindi questa mattina davanti a un palazzo governativo hanno fatto questa grande parata militare, dove in verità non c'era nessuno, erano assolutamente soli. Perché? Perché la popolazione era in piazza a protestare, era in piazza a chiedere un cambiamento radicale con la precedente dittatura. Senti, allora, diciamo, infatti ti stavo proprio per chiedere, perché abbiamo letto da In Italia diverse agenzie che hanno detto appunto che ci sarebbero state anche delle commemorazioni da parte dello SCAF, quindi da parte dell'esercito, che si è assunto questa data insomma come propria per un cambiamento insomma quasi legittimo del suo stare al potere. La cosa che ti volevo chiedere è cosa accadrà nei prossimi giorni, oltre a comunicarvi che in tutta Italia, in diverse piazze d'Italia, tra Roma, Milano, Venezia, adesso in contemporanea alla nostra trasmissione, anche a Roma, a Piramide, c'è un presidio di solidarietà a quello che sta succedendo in Egitto, proprio perché insomma lotta alla rivoluzione se avviene in Egitto è una cosa che sicuramente fa bene a tutto il mondo, e poi la solidarietà è necessaria, soprattutto in questo momento in cui le atrocità, diciamo, che l'esercito ha fatto, la repressione, immagino anche tanti arresti di questi mesi sono anche al centro di Piazza Tahrir. Allora, è ovviamente molto difficile fare un pronostico di quello che succederà nei prossimi giorni. La situazione qui è comunque molto tesa, c'è un dispiegamento di forze militari cioè veramente una cosa esagerata, hanno ormai occupato buona parte della città, hanno chiuso delle strade di downtown, eccetera eccetera eccetera. Non credo che lo SCAF, il Consiglio Supremo delle Forze Armate, sia così stupido da portare avanti un'azione violenta proprio oggi, questa notte, domani, insomma in questi giorni, dove la piazza sarà veramente molto affollata. Quello che succede di solito, quello che è successo anche negli ultimi mesi, è che si aspetta che la gente si stanchi un pochino, e quindi che la piazza si cominci a svuotare, e quindi che l'occupazione diventi anche il numero meno importante, tutto quanto, per sferrare insomma un attacco repressivo più decisivo. Questo ovviamente è un'ipotesi, perché è veramente molto difficile capire cosa può succedere. La dichiarazione di Tantawi è stata che non voleva nessuno che stazionasse a Tahrir questa notte e questo non avverrà, perché la piazza è ormai piena di tende, e la gente è venuta anche tantissimo, in grandissimo numero, fuori dal Cairo, e è venuta per protestare, è venuta per rimanere, è venuta per riappropriarsi di questo spazio di libertà che è Piazza Tahrir. Non so, la gente non è intenzionata ad andarsene, è intenzionata a portare avanti insomma la lotta finché ce n'è bisogno. Diciamo che in questi ultimi mesi l'hanno dimostrato con molta forza, perché diciamo così gli omicidi e gli arresti eccetera non hanno sicuramente fermato lo stare in piazza e continuare a protestare contro l'esercito e lo SCAF. Volevo capire se la questione dei prigionieri e delle, che sono tanti, insomma, si parla di tantissime persone, anche se ci sono state ultimamente delle liberazioni, e è un argomento insomma che la piazza come rivendicazione sta portando avanti, se ci sono nate delle associazioni, dei comitati che si occupano di questo. Dei comitati sono nati fin dall'inizio, di fatto nell'ultimo anno, cioè di fatto Cantauro è un uomo del regime, tutta la giunta militare sono uomini del precedente regime e i metodi usati per la repressione sono quelli del precedente regime, non è cambiato assolutamente nulla e quindi oltre ovviamente alla scarcerazione dei rivoluzionari, quello che il movimento, quello che le varie organizzazioni, che sono molto, insomma, sono varie e multiforme, all'unisono chiedono è ovviamente la liberazione dei manifestanti che sono stati arrestati, ma non solo, anche la fine dei processi militari a danno dei protestanti, perché comunque questa gente non subisce dei processi civili per la sua partecipazione alla rivoluzione, e di contro ovviamente chiedono i processi contro gli assassini che hanno sparato contro la folla, le persone che hanno fatto tutti quei, che sono assolutamente identificabili per la maggior parte, appartenenti all'esercito, alla polizia o alle forze dell'ordine. Di fatto da gennaio del 2011 non è passato un mese che non ci siano stati degli arresti, che non ci siano state delle torture, che non ci sono stati dei feriti e che non ci sono stati dei morti. È questo che la piazza rivendica, rivendica un cambio radicale col passato governo Mubarak. Senti, rispetto alle elezioni che si stanno svolgendo in Egitto e stanno ormai per terminare, in cui vedono i Fratelli Musulmani comunque in testa ai voti, che cosa, insomma, ci puoi dire tu? Anche come viene recepita un po' dalla piazza, ecco. La piazza oggi non è dei Fratelli Musulmani, questa è una cosa sicura. Il dato più preoccupante di queste elezioni, che ancora non sono finite, comunque non è quello dei Fratelli Musulmani, ma di questa grande percentuale che hanno preso i salafiti, che è ovviamente un movimento molto più fondamentalista, diciamo. Che dire, i Fratelli Musulmani sono un po' delle bandiere al vento e quindi appartengono e non appartengono alla rivoluzione a seconda del momento e degli accordi che stanno facendo in quel momento. Di fatto non sono un elemento rappresentativo della piazza di oggi, cioè sicuramente c'erano dei gruppi, delle organizzazioni religiose, probabilmente c'erano anche dei Fratelli Musulmani, ma erano in una piccolissima minoranza, e questo è un dato significativo della piazza di oggi, perché comunque la gente è anche stanca di questo atteggiamento opportunista che i Fratelli Musulmani stanno avendo. Ok Marco, non so se tu hai qualcosa da aggiungere, altrimenti insomma io manderei questi audio che tu hai registrato, delle voci proprio da Piazza Tahrir. Io forse l'ultima domanda che ti farei è che si è parlato molto sempre in Egitto, diciamo così, delle donne piuttosto che dei giovani a Piazza Tahrir, no? E più difficilmente, diciamo, sui nostri media sono apparse invece le proteste, gli scioperi che hanno fatto gli operai per esempio nelle fabbriche e via dicendo. E diverse volte è stata bloccata anche molta produzione, e volevo capire se questa rappresentanza, diciamo, anche un po' più dalla fuori e il Cairo, quindi un po' più operaista, era presente anche all'interno quest'oggi. Ma all'interno della piazza oggi? Sì, intendi? Sì, direttamente della piazza. Beh, oppure se c'erano anche stati dei momenti fuori il Cairo, un po' in tutto il resto dell'Egitto, se tu avevi sentito, letto, percepito. Guarda, la verità è che io tutto il giorno che ho fatto diverse manifestazioni e tutta la piazza. Come spesso succede in queste situazioni un po' di tensione, i telefoni sono stati fuori uso per buona parte della giornata e io non so assolutamente nulla di quello che non ho visto con i miei occhi. Quello che io ho visto con i miei occhi è veramente una partecipazione assolutamente trasversale, sia di classe che di genere. Il resto, quello che è venuto fuori, sinceramente non lo so. Va bene, noi ti ringraziamo, mandiamo appunto questi audio, almeno uno o due, visto il tempo, poi manderemo anche il terzo comunque nel corso della serata, che tu hai realizzato in questi giorni. Non so se ce ne vuoi parlare un minuto, sono delle voci che tu hai raccolto e stai continuando a raccogliere da proprio Piazza Tahrir, dove ti trovi ormai da diverso tempo. Che dire di queste voci? Sono degli audiodocumentari, sono dei ritratti di ribelli che hanno deciso di raccontarsi. L'unica piccola cosa che vorrei raccontare è che secondo me è molto significativa della presa di coscienza delle persone che stanno partecipando a questa rivoluzione, stanno chiedendo un cambiamento decisivo. Il fatto che io ho iniziato tutte le interviste, che ormai sono molte, tutte le persone che hanno deciso di parlarmi e di avere la loro voce registrata, ho iniziato chiedendo se volessero usare un nome falso, non utilizzare il nome, perché comunque qua lo stato repressivo è molto alto, i controlli sono molto forti, la gente, sia stranieri che internazionali che egiziani, stanno subendo delle pressioni molto molto molto pesanti, e non ce n'è neanche uno o una persona che ha scelto, che ha optato per l'opzione di utilizzare un nome diverso. La gente partecipa, che chiede un cambiamento e vuole utilizzare il proprio nome, perché loro sono assolutamente consapevoli che il futuro che sono è il futuro d'Egitto. E questo è un dato, secondo me, molto forte, molto, molto bello e molto significativo. Ci si prende la propria responsabilità in qualche modo, è questo quello che dicono, no? Sì, sì, a voglia, mi sembra anche, insomma, coraggioso. Soprattutto è assolutamente coraggioso, è molto coraggioso. D'altronde, insomma, diciamo che le immagini di repressione forte che abbiamo visto dall'Egitto, insomma, non sono immagini che, se l'avessimo visto in qualsiasi altro paese, altro che bombardamenti a Gheddafi o via dicendo, insomma sono state immagini molto dure. Il mondo non ha assolutamente risposto. Capisco che loro, mettendoci la faccia anche quando scendono in piazza, perché non ho visto raramente manifestazioni con persone coperte e via dicendo, anche fronteggiando lo stesso esercito, per cui immagino che anche questo, insomma, loro ci tengono molto anche quando mettono la loro faccia per il resto del mondo. Va bene Marco, noi ti ringraziamo, mandiamo questi tuoi audio e noi ci risentiamo casomai nei prossimi giorni, dove andremo a capire, insomma, se questa piazza così gremita e piena di gente, quanto riuscirà di nuovo a tenere, quanto l'esercito userà tutto il dispiegamento grosso che tu ci hai descritto, presente, insomma, al Cairo, per cui, insomma, avremo modo di risentirci. Grazie a voi per lo spazio di solidarietà, e io spero veramente che ci risentiremo nei prossimi giorni da una piazza occupata e gremita di tende e di persone che non se ne vogliono andare, insomma. Infatti, va bene, grazie Marco, a presto, ciao. A voi, grazie. Ciao. Allora, quindi 87.9, questa è Radio Onda Rossa, io vi mando questo audio, uno dei tre, perché poi andrà in onda il giornale radio, al termine del giornale radio vi manderò, vi farò ascoltare gli altri due, e durano ognuno 6 minuti, per cui fra poco appunto ci ricollegheremo con Piramide all'inizio del giornale radio, proprio per andare a vedere che invece cosa sta succedendo a Roma. Questo era un collegamento che facciamo con Marco Pasquini, che appunto si trova giù e che di cui sono anche che ha realizzato questi racconti in questo documentario, audio documentario. Ancora 87.9, questa è Radio Onda Rossa, poi torneremo al termine. I was at Muhammad Mahmoud Street. Ero in via Muhammad Mahmoud e davanti a me c'era un poliziotto, un ufficiale credo. Non ho visto i gradi, ma aveva uno scudo, indossava il casco e ovviamente impugnava la sua pistola. Me l'ha puntata contro, tra noi c'erano meno di 2 metri. È incredibile come me l'abbia puntata direttamente alla testa. Middle point of my forefront of my head. And while I was turning, mentre mi giravo per scappare, un proiettile mi ha colpito di striscio alla nuca. È chiaro che aveva intenzione di ammazzarmi, ma sono stato fortunato, sono sopravvissuto. Kind of luck to survive. My name is Mi chiamo El Sayed Abbas Raje, vengo da Soag, nell'Alto Egitto. Ho 26 anni e lavoro come traduttore freelance. Noi egiziani abbiamo vissuto l'oppressione sulla nostra pelle, in ogni aspetto della nostra vita. C'è sempre stata una sorta di separazione tra gli strati sociali. Le diverse classi non hanno mai avuto gli stessi diritti e tu non potevi far altro che convincerti che ciò era giusto. Dovevi tenere gli occhi bassi, perché se avessi provato a dire qualcosa poteva finire male. Uno dei primi slogan, quando siamo scesi in piazza e nelle strade per reclamare un cambiamento, era pane, giustizia e libertà. Chiedevamo solo che le cose cambiassero. La reazione della polizia e dell'esercito è stata molto violenta. Ci hanno assalito, ci hanno maltrattato e noi abbiamo reagito solo per difenderci. E mentre ci difendevamo, abbiamo capito che eravamo più forti. Allora ci siamo detti, perché non provare ad accelerare questo processo? Perché non chiedere le dimissioni di Mubarak? Siamo a gennaio, i primi giorni di gennaio del 2012, e fino ad oggi non è passato mese senza che ci fossero martiri, persone ammazzate dall'esercito, feriti, gente torturata. C'è stata una chiara violazione dei diritti umani in Egitto, che è arrivata perfino a controllare la virginità delle donne. L'esercito si è macchiato delle peggiori atrocità di guerra, cose che neanche potete immaginare. Il momento più triste è stato il 28 gennaio dello scorso anno. Eravamo sul ponte Kasr al-Nil e stavamo cercando di raggiungere la piazza. C'è stato un vero e proprio massacro. Le persone morivano una dopo l'altra. È stato terribile. Dovunque mettessi i piedi c'era qualcuno in fin di vita. Ero molto triste, ma allo stesso tempo ero felice di vedere come, nonostante tutto, la gente continuasse ad andare avanti. Il momento più bello nei giorni della rivoluzione credo sia stato il giorno in cui Mubarak si è dimesso. Se ci ripenso, mi accorgo di come non avessimo ancora la consapevolezza che Mubarak e lo SCAF erano la stessa cosa. Ma quello che importava era che Mubarak non c'era più. Credevamo che da quel momento in poi tutte le richieste della rivoluzione sarebbero divenute realtà. Ma lo SCAF ci ha ingannato. Ci hanno detto che avrebbero lasciato il potere dopo 6 mesi. Ma è passato un anno e non l'hanno fatto. E non credo che lo faranno, a meno che la situazione non precipiti. Non sono altro che traditori della nostra rivoluzione. Lo slogan più bello, quello che amo di più, è Abbasso il regime militare. Queste parole racchiudono in sé l'idea del superamento delle paure che ci opprimevano e la rottura delle catene che ci tenevano stretti. Questo canto per me significa libertà. Piazza Tahrir per me è un luogo di purificazione. È come una fenice che risorge dalle sue ceneri. And that came out of its ashes. Prima della rivoluzione non pensavo di avere alcuna responsabilità. Vivevo solo in funzione di me stesso. Ora dedico il mio cuore e la mia vita alla causa egiziana. Batel! Batel! Batel! Batel! Batel! Batel! Batel! Batel! Batel! Batel! Batel! Batel! Batel! Batel!